Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Qui bisogna farsene un'idea per viaggio gratis. È una parola. E che sono mandraghe per davvero? Biglietti? Eccolo. Ammazza quanto è grosso. Biglietti, c'è una fascia. Pare Sandoca. Damo. Sì, ma senza dare nell'occhio. Vai avanti e avverti quel frescone de Felice. Ok. Biglietti? Sandoca. Muovete, e vai! Sempre avanti, poi alla prima stazione scendiamo e risaliamo sul treno dalla carrozza de Cu. Un lavoraccio! È una mandragata! Permesso? Bobby! Ma che modico! Messo, ma piano! In maniere! Permesso? Scusi, abbia pazienza, scusi, Mangi! Ma mangio, la rilascia tua! Febbre a cavallo è un classico intoccabile, sono parole scritte con lettere di fuoco, indubitabili, però è certo che è uno dei metodi più difficili per non pagare il biglietto, scendere alla stazione, poi rifarsi di corsa tutto il treno e risalire nell'ultimo vagone. Però loro lo facevano perché è un paradosso, ma è un paradosso, però diciamo la tecnica o le tecniche per non pagare il biglietto probabilmente sono ormai un patrimonio comune del sapere condiviso. Perché leggo numeri abbastanza preoccupanti su quella che è la tendenza media nel nostro paese di non pagare il biglietto su qualsiasi tipo di autotrasporto, autobus, treni, ferrovie, traghetti probabilmente, non so, laddove è possibile, lo diranno poi le persone localmente dislocate in zone dove funzionano traghetti tra il nostro pubblico. Oggi volevo parlare proprio di questo, sulla tecnica dei portoghesi. La manovra bis, fra i tanti provvedimenti, c'è una misura urgente proprio contro l'evasione nei mezzi pubblici. Si prefigura la formazione di corpi speciali, di agenti chiamati accertatori, che avranno la prova video con immagini interne sia dentro le autovetture sia posizionate sulle banchine per vedere se uno paga il biglietto. Quindi un costo sociale enorme semplicemente per quelli che non pagano il biglietto. Sono tanti, il 20% dei passeggeri è senza biglietto, questi sono dati che prende un'agenzia ADN Cronos, presa l'associazione che riunisce tutte le aziende di trasporto pubblico. In alcune regioni è endemico, non so se pagherò la multa prevista per chi dileggia la Campania, ma 7 su 10 non pagano i biglietti, questo non lo dico io, lo dice la CGA di Mestre, 7 persone su 10 non pagano il biglietto sull'autobus, è normale non pagare il biglietto. E detto questo, sono due gli ordini di intervento che oggi vorrei con il nostro pubblico. Primo, come si fa a non pagare il biglietto? Nell'ordine autobus, metropolitana, treno, facciamo queste grandi categorie, poi vediamo se qualcuno sa anche come non pagarlo nei traghetti, magari nei vaporetti, via dicendo. Però autobus, metropolitana e treno sono tre luoghi in cui sicuramente saprete come si fa, sicuramente c'è fra chi ascolta qualcuno che ha un cugino che usa questa tecnica o sa come usa. Seconda cosa, come reagire, quale pantomima inscenare quando si viene scoperti? Sì, perché è una cosa molto imbarazzante, a tutti è successo una volta nella vita, a tutti succede, ogni non aver fatto il biglietto, uno sale di fretta tante volte, dice ma tanto faccio una fermata e in quella fermata tanto bene ti beccano e allora lì viene da sudare freddo, o naturalmente se uno abitualmente non fa questa cosa. Narra Fabrizio Intonti, con cui questa mattina preparavo la trasmissione, che lui ha visto una ragazza romana tentare di fingersi straniera parlando un improbabile inglese, facendo finta di non aver capito, ma questo è uno dei tanti sistemi, uno si può buttare per terra, strapparsi le vesti, dire che è povero, dire di comprare il latte pannolino per bambino solo 20 centesimi, si può inventare qualunque cosa. Beh, voi come fate? Allora 800 24 0024, oggi è una sorta di pubblica confessione, liberiamoci del peso delle nostre coscienze. Quante volte l'abbiamo fatto da solo con altri e ci ha dato un particolare piacere farlo. 800 24 0024, tra un minuto. Stazioni di servizio Costantin, se ti fermi ti conviene. Vi presenta Melog, cronache meridiane. No, è la prima volta. È la prima volta. Ma come mai l'hai fatto? Perché ho poca moneta e mi serve per l'autostrada. Ah, ok. Sì, perché devo, da sono andato, devo prendere la macchina. Ok. Tu ritieni giusto il prezzo del biglietto? Sì, sì, sempre, anche perché vengo qui in università, io la tessera. Però loro due sono, non sono italiani. Sono venuti qui per la prima volta e ho detto, ma se facciamo sta cavolatina. Mi ha visto entrare senza pagare il biglietto, ma non ce l'abbiamo, il biglietto ce l'abbiamo, solo che non lo volevamo timbrare perché dobbiamo risalire ancora uscire, ce l'abbiamo nuovo. Ah, dunque è stato un risparmio. Sì. Certo, avercelo e non timbrarlo è la stessa cosa, uno tiene come fosse un'icona, un santino. Queste erano delle domande che ha fatto nella metro di Milano 1 per il Corriere.it Roberto Rizzo, chiedendo alle persone perché non timbrassero, perché usano questo sistema. Ma diciamo che ci sono varie possibilità di arrangiarsi. La prima cosa è, per quanto riguarda il treno, il nascondimento nel gabinetto, che ha dei pro e dei contro naturalmente. Nessuno viaggia nei treni Trenitalia, non so se è preferibile farsi 3 ore di camera a gas in mezzo a una sorta di guerra batteriologica o accettare di pagare il biglietto. Ma comunque se i controllori vanno a vedere dentro i bagni non può essere rimasto chiuso, sigillato, è un po' difficile, oppure bisogna fare un lavoro di alchimia, correre, cambiare, scambiare, insomma è una fatica. Esiste anche una maniera tecnica di andarsi a raccattare per terra dei biglietti usati, quelli migliori, cancellare l'obliterazione, naturalmente ci vogliono delle tecniche di abrasione molto raffinate perché si vede, e ritimbrarlo. È un pochino più complicato, ci vuole più tempo, però almeno uno sta tranquillo. Altra maniera, non lo so, me lo direte voi, c'è il salto della quaglia al tornello, l'ho visto fare molto spesso, c'è il trenino al tornello, si finge una promiscuità anche abbastanza ambigua e si entra in due o in tre, uno appiccicato all'altro. Se ti fermano che dici? Beh, dici, eravamo presi da un raptus amoroso, non lo so cosa si dice. Fabio, buongiorno. Sì, buongiorno, buongiorno a lei e a chi ascolta. Lei ha delle tecniche particolari? No, guardi, io in realtà sono uno dei controllori. Ah, lei è un controllore, quindi può raccontarci, sì, sì. Può raccontarci vita, morte, miracoli dei portoghesi. Oh, mamma mia, guardi, è un carnevale. Ma lei dove controlla? Dentro un autobus o metropolitana? Sì, sì. Autobus urbani, extraurbani. Ma cominciamo con calma, visto? Ho un controllore a disposizione che è rarissimo. Innanzitutto l'appostamento come avviene? A Roma funziona che fanno finta di fumare una sigaretta nascosti dietro un albero. L'autobus, che è d'accordo, si blocca immediatamente, chiude tutti gli sportelli, salgono e è finita. Lei si mette alle fermate, anche lei impostazioni, diciamo, infide, diciamo così. Ma no, noi siamo sempre ben visibili alle fermate, alle pensioni. Beh, e se uno vi vede timbra però, non so. Ma no, perché comunque il flusso di passeggeri sono numeri elevatissimi, sono migliaia e migliaia, gli autobus sono tanti. Come avviene l'operazione? Entrate da due porte opposte, chiudete tutto, dite fermi tutti, no? No, assolutamente no. L'autista apre la porta, noi saliamo e naturalmente poi gradualmente con calma si verifica chi ha il titolo di viaggio valido oppure no. Insomma, qual è la media? La media, diciamo, delle persone che non ce l'hanno? Guardi, rispetto al resto d'Europa, io ho girato un po' l'Europa negli anni scorsi, devo dire che purtroppo è piuttosto elevato. Diciamo ogni 10 che ne ferma, quanti hanno fatto il biglietto? Ma guardi, dipende dalle linee, dagli orari, dalle fermate, perché se lei si mette a controllare con assiduità una linea, noterà senz'altro che nel giro di un mese, due, l'abusivismo si abbatte, mentre se una linea la lascia tra virgolette scoperta, no, e lei noterà, dati alla mano, che gradualmente l'evasione aumenta. Ma se uno dice nel 64, che ne so, che uno degli autobus che attraversa tutta Roma non sale mai, il controllore è sempre pieno, è impossibile, quindi lì uno va sicuro, tranquillo. Diciamo che le probabilità di non essere beccato sono molto elevate, naturalmente se sanno che lì ci sono pochi controlli, perché ripeto, c'è un passaparola che è incredibile. Ah, quindi la gente lo sa. quindi c'è, c'è, assolutamente sì, c'è una predeterminazione, una predisposizione. Ma guardi, intanto trasversali italiani e stranieri, eh? Sì, ecco, per non dare la croce agli stranieri. No, ma non è, guardi, io le posso testimoniare, è trasversali italiani e stranieri. E fascia d'età chi sono i peggiori, giovani e vecchi? Guardi, i giovani generalmente sono quasi sempre studenti e tendenzialmente sono abbonati, perché comunque l'autobus usano più volte al giorno, eccetera. Ma c'è una fascia in mezzo, magari meno giovane, che l'autobus lo prende saltuariamente e effettivamente magari prova a non pagare. Infatti chi lo prende abitualmente fa una tessera una volta l'anno e non ci pensa più, è più facile. Affermo una, resti in ascolto perché lei a questo punto è il nostro esperto. Sentiamo Manuele, così poi lo confrontiamo con il controllo. Emanuela. Pronto? Sì, l'ascolto, Manuela. Sì, beh, io posso testimoniare i racconti di mia figlia che va in pullman al liceo e che trova magari compagni che non hanno, che puntualmente non comprano il biglietto, ne comprano uno singolo e poi lo usano una volta ogni tanto quando vedono. Cioè lo tengono vergine, come possibile una volta ogni tanto? Sì. Poi tra di loro gira la leggenda, che secondo me è una leggenda, che se si spalma di borotalco il biglietto quando si inserisce nell'obliteratrice non registra, cioè si possa riutilizzare più volte, ma mi sembra un po' interessante. E pensi, sentiamo una, Fabio, le è successo mai avere un biglietto al borotalco che gli offrono un biglietto? No, non funziona. Leggende, non funziona. Guardi, i biglietti alterati è come la Coca-Cola tagliati, come anticoncezionale, sono quelle cose che uno ci crede, ma I biglietti tagliati, alterati, fluritimbrati, cancellati, quelle cose lì sono le prime cose che becchiamo subito. Quindi è inutile. Si vedono subito. Biglietto alterato, cioè loro lo cancellano e lo ritimbrano. C'è quello magari un po' più ingegnoso che prende due biglietti, uno naturalmente scaduto magari giorni prima, il mese prima, eccetera, lo mette sopra quello vergine, ok, a quello nuovo, e timbra, e si fa vedere da tutti che timbra. Eh sì, ma se lei lo vede però c'ha il biglietto finto. No, ma io non lo vedo perché magari salgo dopo per i controlli, no? E naturalmente lui cade dalle nuvole dicendo: ma guardate che è la macchinetta che non ha timbrato perché è tagliato. Ah, ecco. Non so se mi spiego. Sì, mentre ha timbrato sul biglietto prima. Allora noi proviamo le macchinette, anche in quel caso lì viene scoperto subito. Però lui si fa forza con la testimonianza delle persone sopra che ha timbrato il biglietto. Vabbè, ancora più, c'è un coinvolgimento di complici involontari. Esattamente. Ecco, guardi, quello di coinvolgere altre persone in favore, no? È molto diffuso, lo utilizzano parecchio. Beh, una scolaresca, sono tutti d'accordo, chiaro che hanno timbrato, quello è logico. Naturalmente si fanno forza perché essendo in 6, 7, 5, 2, 3 persone che dicono la stessa cosa, tentano di forzare. Ma lei scusi, che strumenti ha per difendere? Non è che è armato, non è che può tirare fuori. Noi siamo assolutamente disarmati. E quindi niente, dite non potete fare nulla. Se lo dico non pago, lei che fa? Io dico non pago, lei che fa? Niente. Beh, momento, non pago. Se lei non ha un titolo di viaggio regolare, è soggetto a sanzione. Ma questo è un dovere, non è che noi possiamo. Sì, fare ma la multa, radicalizziamo la storia. Dobbiamo. Le dico io non pago la multa, lei che fa? Cosa cioè, può fare? Non paga la multa. No, non gli do i documenti, non gli do nulla, non faccio nulla. In quel caso lì dovremmo avvisare le forze. Quindi bloccare l'autobus, chiudere le porte, chiamare la polizia? No, non bloccare l'autobus, possibilmente per non coinvolgere altre persone, perché non è il caso per un biglietto di impedire ad altre persone di andare a lavorare, eccetera. Certo che però questa cosa di coinvolgere altre persone poi è ambivalente, perché io posso dirle in mezzo alla gente: guardi che queste persone qua hanno il diritto di andare a lavorare, di tornare a casa, di muoversi, e lei non può con questi atteggiamenti coinvolgere altre persone. Certo, Fabio è proprio un lavoraccio, il suo è faticoso, è il lavoro dura, sa perché? Perché in Italia purtroppo le norme non sono ancora adeguate. Ma non era quasi meglio tornare al vecchio bigliettaio come era una volta? Però guardi, io sono perfettamente d'accordo con lei, sarebbe un ottimo sistema. I problemi sono i costi, perché mettere una persona in più su ogni autobus ha un costo esorbitante. Fermo un attimo, sentiamo Stefano. Stefano, buongiorno. Buongiorno, io vi porto quello che ho fatto 20 anni fa quando facevo l'università e da buon studente squattrinato si cercava sempre di risparmiare. Allora, il biglietto dell'autobus, dell'abbonamento mensile, era come un biglietto normale, si scriveva a penna, nome, il cognome, il mese. Sì. Di validità. Sì, ma ogni mese era il colorato diverso, però io me lo ricordo. No, era grigetto, era uno solo. A Roma ogni mese cambiava il colore, sì. Ah, no, dove l'ho fatto io all'università, no. Allora, cosa si faceva per evitare, cioè per poter usare il biglietto più mesi? Nella striscetta dove c'era l'obbligatorietà acquista, si metteva la colla stick, si faceva asciugare, si timbrava e poi io lo infilavo direttamente dentro la plastichetta della carta d'identità, in modo che se passava il controllore gli facevo vedere l'abbonamento con la carta d'identità, lui leggeva praticamente il mese e tirava dritto perché era già dentro il documento. E poi lo scrostava la colla e lo ritimbrava. Il mese dopo, con un po' di alcol, un cotton fioc, un po' di candeggina, qualcosa del genere, si scrostava, si rimetteva la colla e si ripartiva. Durava 3 mesi perché poi ovviamente si deteriorava. Si bucava il biglietto. Però mi fa sorridere l'idea. Cioè, sentendo la trasmissione mi è venuto da ridere. Cioè, era più l'ingegno, più il divertimento di fregare in maniera ingegnosa che poi alla fine il risultato. Sì, erano 35.000 lire al mese quella volta. Vabbè, in 3 mesi 100.000 lire erano, non era poco. Però per uno studente squattrinato, universitario, fuori sede, facevano 2 pizze con la morosa, no? Certo, se no si pagava una morosa. Diego, buongiorno. Sì, buongiorno. Niente, io più che altro sono un po' contrario a quello che è il discorso del nuovo decreto, perché questo nuovo decreto che vuole introdurre delle nuove forze dell'ordine all'interno dei controlli con dei sistemi così costosi come quelli delle telecamere. Sì, io voglio solo pensare alle telecamere piazzate, sì, alle fermate, però, quanto dureranno? Allora, in una città non si spendono i soldi per un bigliettaio, però si spendono i soldi per queste cose tecnologiche che comunque qualcuno dovrà installarle, qualcuno dovrà fare le manutenzioni, qualcuno dovrà controllarle. Che non se ne freghi, queste cose diventa un carrozzone. La cosa che io, siccome grazie al mio lavoro riesco a viaggiare molto durante l'anno, vedo quello che succede in Europa e queste soluzioni sono già state risolte semplicemente. E come fanno in Europa? Allora, le faccio un esempio. A Londra gli autobus è lo stesso guidatore che fa da controllore nella situazione. Come gli autobus quelli di linea di lunga percorrenza, che uno sale davanti e paga il biglietto. Uno entra, paga il biglietto, oppure se c'ha il biglietto davanti a lui lo timbra, oppure se c'ha l'abbonamento glielo fa vedere. Questa cosa qua, perché naturalmente succede, perché ci sono molte più linee, perché c'è la possibilità di avere i tempi tecnici per poter fare questa cosa e quindi il viaggio è sempre tranquillo e naturalmente con tutti i paganti a bordo. Questa cosa funziona. Faccio un altro esempio per i treni. Sì. In Francia il TGV oppure altri treni comunque di linea che tu vai, prima di entrare nella banchina per poter accedere al treno, ci sono i controllori che ti controllano il biglietto. Se tu non hai il biglietto non entri sulla banchina. Semplicissimo, tu non accedi alla banchina. Questa anche questa sì, sembra molto semplice. Da noi figuriamoci, sono semplice, banale. Cioè, io banale. Su treni nazionali ho visto, ancora ci sono i venditori di calzini. Ancora se uno prende un treno, non voglio sentirmi colpevolizzato, ma l'ultima volta che ho preso un treno che andavo verso il sud, sale un abusivo che vende Coca-Cola, birre, lattine, panini fatti a lui con un cestino. Un abusivo dentro le ferrovie dello Stato che vende del cibo, che fra l'altro anche ci sono delle circostanze igieniche di cui non si tiene assolutamente conto. 800240024, stiamo addentrandoci nel problema tecnico, come fregare il bigliettaio, il controllore, o al contrario, quali sono le misure semplici, banali, a volte anche molto efficienti, come ci ha raccontato l'ascoltatore Diego, per evitare appunto il furto di viaggio, perché chi non paga il biglietto ruba un viaggio naturalmente. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Melog, cronache meridiane. Una persona su 5 non paga il biglietto, almeno così dicono le statistiche. Noi vogliamo un pochino confutarle, perché una persona su 5 prende la multa, ma effettivamente chi è che non paga il biglietto? Tu lo prendi sempre il biglietto? Quasi sempre. Si preferisce spendere soldi per altri piuttosto che per comprare il biglietto. Allora, se lei ha il biglietto, se non vede il controllore non lo deve timbrare, se lo vede lo timbri, cioè, in 0 secondi così, cosa. È timbrato. Ah, Ma fate in tempo tutte a timbrare il biglietto? Sei... sei volte? 50. Quante ne vuole? Cioè, non bloccano la macchina? No. Ma quando ci sono io in pullman non le blocco. Allora, ok, non timbrate il biglietto, ma se disgraziatamente dovessi prendere la multa, sì, come fai? La lanciata chiamò nominativi falsi. Esatto. Nominativi falsi. Nominativi falsi. Quelle le conoscete tutte. E non ve lo chiede il documento d'identità al controllo? No, siamo minori. No, 10 anni. Un'ultima cosa, le studiate tutte. Qua siamo in una simpatica combriccola di cagliaritani. Valentina Ligas su YouTube sente queste ragazze che spiegano i loro sistemi. Si timbra all'ultimo momento, se ti fanno la multa dai il nome falso, tanto siamo minorenni. Ma quello che sorprende è la convinzione di base che sia giusto fare così. Non c'è nemmeno il dubbio che si stia compiendo un reato, che facendo così si danneggia un bene pubblico, va a scapito comunque del benessere degli altri. No, semplicemente chi è più furbo vince. Questa è un po', sembra quasi sin dalle anni più verdi c'è questo principio. Giancarlo, buongiorno. Pronto? Sì, l'ascolto, Giancarlo. Buongiorno. Allora, cercherò di essere sintetico con i tempi radiofonici che non ho purtroppo. Allora, io sono stato in Spagna una ventina d'anni fa e salivo davanti, si saliva davanti e sono stato una decina di giorni a Madrid e poi in altre città del nord della Spagna. Si pagava ancora con le monete e le pagavi all'autista. L'autista faceva quello che diceva il signore prima, faceva sia da controllore che da autista. Però come abbiamo, e se non abbiamo... e se non pagavi non salivi. Io poi ho domandato alla coppia di amici che ci ospitava, insomma, voi siete anche fumini un pochino, insomma, cioè, gli spagnoli possono essere, ma che succede se qualcuno dice io entro e non pago? Dice l'autista ferma l'autobus, lo butta fuori dall'auto. Cioè disonesti forse ci sono ovunque. Selezionano gli autisti fra lottatori di lotta greco-romana, non so, fra culturisti, perché se la mettiamo sul piano fisico, cioè se un autista sta nel suo contratto di lavoro, c'è anche deve comunque fare il buttafuori, la vedo un po' complicata. Diciamo che in altri paesi il problema ci si pone meno, non c'è probabilmente questa mentalità a priori che il vero scopo è non pagarlo, no? Cercare di fare in modo di pagarlo nella maniera più razionale possibile. Sentiamo Roberto. Roberto, buongiorno. Buongiorno, un saluto e complimenti per la trasmissione che seguo sempre. Grazie. Mi ha fatto ricordare un ricordo del liceo quando pagavamo l'abbonamento per andare a scuola che copriva la settimana e il fine settimana c'era il problema di spostarsi con i mezzi pubblici, studenti, pochi soldi, cercavi di fare il furbo. Il metodo più usato tra i compagni di classe era il burro cacao esteso sulla parte da obliterare. Certo, ci si mette di tutto sui biglietti: borotalco, colla, coccoina e burro cacao, poi non so che altro. Il burro cacao era praticissimo, scendevi con un fazzoletto di carta, lo pulivi, il biglietto ti durava. Ma non rimaneva unto poi il biglietto, no? Prego? Non rimaneva unto il biglietto, si vedeva un po'. No. Il tempo del viaggio si toglieva e rimaneva perfetto. Ah, bella. La cosmesi del biglietto era la cosa migliore. Allora, sentiamo Giuliano invece. Sì? Pronto? Giuliano, altre testimonianze. Io voglio raccontare di questo incredibile espediente trovato fortuitamente da questa mia collega. Lei aveva timbrato il biglietto regolarmente, però forse l'aveva ritirato indietro troppo velocemente dalla macchinetta. Il biglietto è venuto fuori stampato, ma sporco, illeggibile praticamente. Lei con questo biglietto illeggibile ha viaggiato per più di un anno sull'autobus, mostrando agli eventuali controllori il biglietto che era così, era un ah, quindi ci guarda, sì, ha timbrato ma è leggibile. Perché, infatti, questo era davanti per più di un anno, fino a che un controllore più solerte di altri disse, poi rimediamo subito, e scrisse una penna sopra il giorno, la data dell'ora di quel giorno. E gliel'ha segnato a vita e fine, basta. Il giorno finì. Vabbè, questo è il biglietto illeggibile, divertente. Nicola. Sì. Sì, ciao. Allora, io sono Nicola, chiamo da Cardi. Volevo dire che secondo me è molto semplice anche affrontare il problema di pagare o non pagare il biglietto dal pilota, no? Vediamo un po', perché molte corriere italiane, quelle che fanno delle tratte regionali, interregionali, usano questo sistema, uno entra e farlo vedere all'autista il biglietto. Lei come fa in questo caso? Allora, io ho l'abbonamento, quindi praticamente salgo, lo passo di fianco alla, diciamo, penso che ci sia un tiratore magnetico, dove viene una spia verde, no? Io mi rendo conto, cioè vedo tutti i giorni gente che sale, che scende, che non timbra, chiaramente il pilota non può farci niente, parlando con lui gliel'ho chiesto, non può fare niente, lui non può fare da controllore. Allora io mi chiedevo, ma una cosa molto semplice, se uno non timbra, praticamente può anche fermare il mezzo, dire guarda, se non timbri non parto, dopo lei se la prende direttamente con quelli che vogliono partire. Sì, però interruzione del servizio è sempre complicato, la gente ha fretta, alla fine vince la folla che urla, dice parti, parti, parti, a meno che non istiga un linciaggio da parte degli altri occupanti dell'autobus di quello che non vuol pagare. Sempre una questione complicata, evitiamo di passare alla fase della forza fisica. Noi abbiamo sentito all'inizio della trasmissione Fabio, un nostro ascoltatore che è anche controllore. In che città lo fa il controllore, Fabio? Verona. A Verona, ecco, di tutto quello che ha sentito lei, quanto corrisponde a una sua esperienza professionale? Ma guardi, quello di alterare i biglietti, eccetera, sì, cioè è diffuso. E ve ne accorgete subito, però, ha detto lei. Assolutamente sì, assolutamente sì. Tanto è vero che negli ultimi periodi c'è un po' una novità, che purtroppo non viene più considerata, purtroppo, lo dico sottolineandolo anche, perché sono cambiati i tempi, ormai la gente è informatissima, c'è internet, c'è stata una evoluzione anche nell'informazione. Cosa voglio dire? Non, almeno per quanto mi riguarda, la buona fede non viene quasi mai considerata, non viene più considerata. Fino a qualche anno fa si poteva capire magari lo sbaglio, la persona molto anziana, eccetera. Oggi purtroppo sono informatissimi. Oggi è impossibile trovare uno che per buona fede non ha timbrato. La buona fede purtroppo non esiste più. Guardi, io le racconto un aneddoto. Ero con un collega, tra l'altro lui guardia giurata, che loro hanno anche la prerogativa, apro una parentesi, hanno le prerogative delle guardie giurate particolari di essere anche armati. Quindi può venire anche con un fucile da caccia? No, fucile da caccia pistola. No, però loro hanno la loro pistola in dotazione. Però dentro l'autobus con la gente cosa fa? Tira fuori la pistola? Assolutamente no, non credo non sia assolutamente consentito dalla legge, però loro hanno il porto d'armi, quindi gli viene consentito, c'è un decreto prefettizio su questo. Comunque incute più timore una persona. Allora ha trovato una signora molto anziana, e questa effettivamente a vederla così sembrava in difficoltà con questo biglietto. E io sottovoce gli ho detto, scrivi. Ha detto, ma non vedi, è molto anziana, forse si è sbagliata. Scrivi, ma sei sicuro? Guarda, ti ripeto, scrivi, fai sanzione. Ha sanzionato. Io ho detto, guarda, scommettiamo una colazione, un cappuccino e una brioche. Poi ti faccio vedere. Ha scritto, gli ha fatto la sanzione, una signora anziana, molto distinta, eccetera. Gli ho detto, ma guarda, forse secondo me si è sbagliata davvero, eccetera. Poi andiamo a vedere. Era la settima sanzione che prendeva. Un abitué, una vecchia furbastra. Vede come siamo messi. Tutta lì, bella, vestita bene, carina, faceva pietà, però sotto sotto non pagava. Sono le peggiori, sono le peggiori. Allora, sentiamo Marisa. Marisa, buongiorno. Buongiorno. Sì. Io vorrei dare una mia interpretazione della ragione per cui viene spesso voglia di non pagare. Io sono appena tornata da Bruxelles e da Amsterdam, dove si paga il biglietto salendo sul tram, dove il controllore ti dà rapidamente il resto. Certo, non è che vai lì con una banconota da 50 euro, saresti un po' guardato male, però c'è un atteggiamento di disponibilità. D'accordo, forse ci saranno anche i furbi che, come diceva l'ascoltatore prima, ci marciano, però credo che in generale sia facile che una persona una cosa non la sappia e chieda. Ci sono persone anche nelle stazioni all'estero che fanno volentieri il proprio lavoro, sono capaci di darti delle informazioni rapidamente e gentilmente, e in questo modo, come dire, ti senti un cretino se non ne esegui, no? Cioè quando in Italia vieni beccato senza un biglietto, è come se se la prendessero con te, colpirne uno per colpirne tutti. Cioè una forma di rivalsa nei confronti di chi non è ligio alle regole. Mentre invece in altre situazioni ho la sensazione che, specialmente all'estero, si contempli l'ipotesi, pertanto gli si dia la possibilità di rimediare. Beh, quello che diceva Fabio prima, il controllore, dice, una volta, qualche anno fa, c'era il beneficio del dubbio che qualcuno potesse essersi sbagliato. Oggi è talmente reiterato, soprattutto talmente quasi genetico il senso che noi cogliamo di persone che sembrano quasi educate a cercare la scappatoia per non pagare il biglietto, che non contempliamo più nemmeno questa ipotesi. Anche di fronte alla povera signora apparentemente svampita in buona fede, io so che comunque una vecchia volpe che lo fa sempre. Invece adesso probabilmente contemplano il fatto che uno possa essere una volta dimenticato, non averci in tasca i soldi spicci, non poter fare il biglietto. È proprio quello che mi scrive un ascoltatore, dice: Nicoletti, ci giri intorno ma non vieni al punto. Gli italiani fin da piccoli sono educati a fottere le regole del vivere civile, dice Walter, che in effetti da questo punto di vista, almeno in questa circostanza, pare non averci tutti i torti. A tra un istante. Faircam Transport, il vostro partner per trasporti a carico completo o parziale. Faircam.com vi presenta Melog, cronache meridiane. E mi sono proprio inguato verso la macchinetta. Sì, l'obliteratrice. Quant'è la devo imparare? La macchinetta, va bene. La timbratrice. E allora? La timbratrice. Allora, la timbratrice chi c'era? C'era una signora terchiotta appoggiata. Io non potevo fare sto biglietto, tanto che le guardo la gente, ora che faccio? E questo qui faceva finta di niente, come per dire, se me la dice, però io, siccome ci tengo a timbrare, allora gli ho detto: signora, mi scusi, signora, mi scusi, mi fa timbrare il biglietto? No, questo posto l'ho visto prima io, questo posto è mio. Che aggressività, signore, io voglio fare solo il biglietto. Ma gliela dà una multa o aspettiamo l'epifania? Non ho capito. Sentiamo dove vuole arrivare. Voglio arrivare solo allora a questo, tanto per fare dire che c'erano dei testimoni nel tram. E chiaramente io ho detto: signora, non urli, non mi faccia fare, non faccia brutte figure lei, perché io sono una persona. Allora, se facciamo una bella cosa, lei stia ferma dov'è, io la prendo di peso, la sposto di 2-3 metri, faccio il biglietto e poi la rimetto dove l'ho trovata, anche perché a me non mi piace lasciare la roba in giro. Proprio è una l'ha fatto o non l'ha fatto? Questa è naturalmente una gag di Aldo Giovanni e Giacomo, però ci sono tutti gli elementi che abbiamo tratto anche dall'esperienza oggettiva del nostro ascoltatore Fabio, controllore di Verona. L'addurre le testimonianze, chiamare a raccolta testimonianze del pubblico che si è fatto il loro dovere, e quello di inventare scuse mirabolanti. Fabio, lei è capitato scuse molto fantasiose per il fatto che non si è fatto il biglietto? Ma vanno dal: ho il bagaglio ingombrante, non riesco a raggiungere le macchinette, è pieno di gente, magari sono sopra in 5. Non ho fatto in tempo, stavo prendendo il portafoglio, stavo prendendo le monete, ma guardi, ma però lei era là in fondo seduta, cioè lei è salita, ha ignorato l'autista, ha ignorato le macchinette, le mettitrici e si è seduta in fondo. Ma io appunto mi sono seduta perché così ero più facilitata per prendere meglio i soldi dalla borsetta. Certamente, insomma, più o meno il livello è questo. Vabbè, una giornata movimentata la sua comunque, non è che si annoia, diciamo. Sì, Barbi, va bene, ci sta, sappiamo un po' la società com'è, eccetera. L'importante è che non si arrivi all'aggressione fisica. E l'è accaduto di essere aggredito? Purtroppo le aggressioni fisiche sui mezzi di trasporto ai danni dei controllori, dipendenti, controllori autisti, purtroppo sono molto diffuse. Basta farsi un giro su Google, fare una ricerca. Ma le è accaduto mai di avere un momento un po' difficile? Assolutamente sì. Però io, guardi, io non sono un poliziotto, non sono un magistrato, io sono semplicemente un dipendente di un'azienda di trasporto pubblico. Io l'ho detto anche più volte alla polizia, non sono qua per denunciare la gente, io non vado in giro a denunciare la gente. Beh, allora, se non l'aggredisce però... Fatto salvo, esatto, casi molto particolari e aggressioni proprio fisiche marcate dove c'è un ricorso al pronto soccorso, tutto il resto assolutamente... Ah, l'hanno picchiata dal pronto soccorso lei? No? Beh, guardi, accade molto, molto spesso, magari no, però accade, è accaduto e purtroppo accadrà ancora... che chi fa verifica sui mezzi di trasporto venga aggredito. Ci sono casi anche molto gravi, per esempio a Roma, sì, dove sì. Un controllore donna ha subito dei danni permanenti. Insomma. Sì, sì, questo è vero, lo ricordo, è vero. Sono casi particolari, certo. Insomma, ci ricordiamo tutti il fatto del macete a Milano. Sì, però, sì, sì. Si entra in contatto, diciamo, con una fauna umana di tutti i tipi, ci sta anche che c'è un delinquente, c'è qualcuno con aggressività oltre la regola. Guardi, conta moltissimo come ci si pone, perché naturalmente poi ci si deve porre anche in modo abbastanza... Ma voi siete sempre in coppia, almeno a Roma sono sempre in coppia. Guardi, che mi risulta adesso attualmente proprio in virtù del fatto che le aggressioni sono purtroppo numerose, credo che adesso le aziende di trasporto pubblico, sia nel ferroviario che nel trasporto pubblico locale, adesso mandino in giro i verificatori in due, in tre o anche in quattro. Fa verifica titoli di viaggio da soli è sconsigliatissimo, sbagliato. Questo è già un dato inquietante. Mi ricordava, prima Fabrizio Intonte, per fare un esempio, poi che due italiani sono stati fermati in un treno in Giappone, non hanno pagato il biglietto. L'imbarazzo degli operatori della ferrovia era che non avevano nemmeno una norma che contemplasse il fatto che qualcuno non pagasse il biglietto, non sapevano che fare, che non esisteva nemmeno una prescrizione di una multa, era talmente fuori dalla loro mentalità che qualcuno non pagasse il biglietto. Cioè, adesso che facciamo? Questi non hanno pagato il biglietto, che dobbiamo fare? Non sapevano nemmeno cosa fare. Allora, Marco, buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno, sì. Allora, io sono reduce da un'esperienza di due anni... Sta trasmettendo in morse, magari smetti un attimo perché... Com'è? Sento un rumore sotto come fosse un... Allora, io sono reduce... No, cos'è quel rumore? Sembra una trasmissione morse, cos'è? No, era il sensore del parcheggio dell'auto. Ah, il sensore del parcheggio, sì, sta facendo retromarcia, ho capito. No, la moglie che sta guidando. Ah beh, allora sarà tutto un concerto di sensori. Sentiamo. Allora, noi siamo reduce dall'esperienza... Scusi, ma sta guidando rasente i muri sua moglie? No, sono preoccupato per lei. Abbiamo appena preso il figlio a scuola, quindi siamo usciti al parcheggio. E lo usate come cavia per far suonare il sensore, fatti capire. No. Vabbè, vedo che siete allegri, sono contento. Andiamo Marco, sì. La sua testimonianza. Allora, noi siamo reduci dall'esperienza di due anni in Svezia, a Stoccolma, e io credo che sia una questione anche culturale. Tutta la famiglia stava a Stoccolma. Sì, esatto. Per questo non siete abituati adesso a parcheggiare in Italia, è un po' più complicato. Esatto. Aveva fatto la mano svedese sua moglie. Sì. E quindi secondo noi era anche un aspetto fortemente culturale il fatto di cercare di evadere il biglietto. La cosa che mi è rimasto, che mi ha veramente reso sconvolto dalla mia esperienza in questo campo, diciamo, di trasporto, che secondo me la Svezia è tra i migliori al mondo, se non il migliore, è che ci sono alcune tratte dove abitavamo noi residenziali, dove addirittura il passeggero ha una tessera, allora intanto è tutto magnetico, è tutto tessera, non esiste il biglietto. Non c'è cartaceo. Passaggio di denaro, biglietto, certo, chiaro. No, tu fai tutto le macchinette. C'è un accredito, c'è una tessera che passa. Bravissimo, è un accredito. E in queste tratte tu hai questo credito e dovresti pagare il biglietto e non ci sono macchinette. Il passeggero siede sul treno, e poi non sempre, però a volte nei momenti di punta dove ci sono parecchi passeggeri, passa il controllore e chiede: ci sono nuovi passeggeri? E tu, se alzi la mano, ti viene scalato il tuo credito. In Italia nessuno alzerebbe la mano. Figuriamoci, immagino già una selva di braccia levate. Esatto. E anche il discorso comunque... Cioè si fidano talmente tanto, dice: chi è che non ha fatto il biglietto? Quello alza la mano. Esatto, alza la mano, il controllore passa col suo terminale, ti scala, tra l'altro è molto costoso il servizio pubblico in Svezia, ha dei costi per il passeggero notevoli. Però nessuno si sogna di fregare, di provare a fregare. Allora, furbo c'è anche là, sì. insomma, il furbetto c'è anche là. Però tendenzialmente sì, si cerca di essere tutti onesti, è una questione culturale secondo noi. Poi è vero, il fatto comunque che anche come in altri paesi ho sentito spettatori prima, il conducente fa anche da controllore, a me è successo che non mi hanno fatto salire perché non avevo il biglietto in regola. Quindi stai a casa, se non hai il biglietto pagato stai lì. Sì, diciamo che quello che sembra scontato in altri paesi per noi ancora è una conquista che sembra lontanissima. Bisogna fare i decreti speciali, le circostanze straordinarie. Sentiamo Marco ha parlato, abbiamo soltanto il nostro controllore Fabio, alla fine di tutta questa bella chiacchierata, lei che è stato testimone e diciamo implicato in prima maniera, lei pensa che arriveremo a una soluzione simile a quelle che abbiamo descritto come i paesi dell'altra faccia della luna? Ma guardi, penso fra 20 anni. Ci vorranno 20 anni nella sua presenza. Assolutamente sì. Almeno 20 anni ci vorranno, dice il nostro Fabio. Ma lei, mi scusi, se lei va a Vienna hanno ridotto i controlli quasi a zero. Non c'è manco più bisogno. Non c'è più bisogno. Non ci sono i tonnelli per andare in metropolitana, non ci sono i tonnelli. Ci rendiamo conto che quello che dice Fabio è sacrosanto. Noi stiamo pensando nuovi sistemi elettronici per individuare i portoghesi. In altri paesi già hanno risolto il problema abbassando anche le barriere architettoniche per l'accesso ai mezzi pubblici, perché la coscienza generale ha ormai passato il principio che chi viaggia deve pagare il biglietto. Per noi ancora questa sarà una conquista culturale difficilissima. 20 anni, dice il controllore. Speriamo di arrivare a vederlo. Alla prossima.